Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ancora sport. E noi nelle nostre continue incursioni in questo mondo abbiamo raccontato calciatori, piloti, tennisti, ciclisti, nuotatori e ancora ne racconteremo. Oggi invece ci mettiamo a bordo campo, andiamo vicino alle telecamere, anzi prima vicino ai microfoni. Parliamo di chi per primo lo sport lo ha raccontato. Prima alla radio e poi con l'avvento della televisione ci ha commentato le immagini che noi italiani cominciavamo finalmente a vedere. Raccontiamo la storia del telecronista italiano a cui tutti i moderni commentatori televisivi si sono ispirati, quello a cui tutti devono dire grazie. Questa è la storia di Nicolò Carosio. Amici telespettatori, buonasera. È Nicolò Carosio che vi parla. Londra, 22 maggio 1963, stadio di Wembley. Milan e Benfica si contendono l'ottava Coppa dei Campioni. Il Real Madrid ha vinto le prime 5 edizioni. Le ultime due sono state appunto del Benfica. Il Milan schiera Ghezzi, Davide, Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Pipatelli, Sani, Altafini, Rivera e Mora. Ma partiamo da un bambino palermitano degli inizi del secolo, il figlio di un ispettore della dogana, di una pianista inglese, un bambino che viaggia per l'Italia seguendo il lavoro del padre, Genova, Domodossola, La Spezia, Milano, Venezia. È una passione per il pallone, per il gioco, ma soprattutto la passione di sedersi a bordo campo e raccontare la partita per i suoi amici. Questo è il bambino Nicolò, con una C sola, Carosio. Nicolò Carosio, un bambino studioso, educato, che si laurea poi in legge a Venezia con una famiglia di con una certa tranquillità economica, con l'occasione da parte sua di viaggiare. Va in Inghilterra, rimane profondamente colpito dalle radiocronache BBC del calcio inglese, e gli inglesi erano già molto avanti quanto a calcio agli inizi del secolo passato. La passione di bambino comincia a diventare il sogno di una professione. Torna a casa e decide di mandare una lettera all'EIAR, l'ente italiano audizioni radiofoniche, in pratica la primogenitrice della RAI. Siamo nel 1932, l'EIAR trasmette da soli 5 anni, tutto è pionieristico, gli annunciatori della radio vengono scelti per la loro pronuncia, per la dizione, non ci sono delle scuole professionali specializzate, però lui ha la fortuna di essere laureato in giurisprudenza, di essere quindi istruito e di avere viaggiato in lungo e in largo per l'Italia, quindi di non avere un accento con una connotazione troppo precisa. Insomma, l'EIAR lo convoca per una audizione, lui improvvisa una finta radiocamera tra Juve e Torino, va avanti a raccontare gol che si immagina lui, sul 5-5 viene fermato dagli esaminatori che gli offrono un lavoro. Così Nicolò Carosio, a 25 anni, diventa il primo e unico per il momento radiocronista italiano. Pozzo incita gli azzurri ed anche la folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. Questa è la radiocronaca di Italia-Cecoslovacchia, finale di Coppa Rimé 1934. L'Italia di Vittorio Pozzo vincerà quella Coppa del Mondo, quella partita con un 2-1 ottenuto ai supplementari. Prima segna Pucci, poi pareggia Mumo Orsi e nei supplementari Schiavio fa vincere all'Italia la prima Coppa del Mondo. In realtà l'esordio di Carosio risale a un'Italia-Germania del 1 gennaio del 33. Due minuti di esitazione, un silenzio un po' imbarazzato e poi la sua prima radiocronaca. Bisogna ricordare che il lavoro del radiocronista non è una cosa facile a quei tempi. Intanto la postazione è a bordo campo, quindi non sulle tribune, non si vede la partita dall'alto. Se piove ci si bagna, l'apparecchio magari non funziona al meglio. Insomma, fare una radiocronaca è un'avventura. Poi magari puoi ricevere una pallonata oppure puoi mandare in onda le urla di un tifoso più agitato degli altri. Insomma, in questo scenario molto precario, Nicolò Carosio inizia a entrare nelle case dei pochi fortunati che all'epoca posseggono una radio, e ci entra con garbo, con educazione, raccontando la partita con dettagli tecnici, frasi colorite e il pathos calcistico accentuato dal fatto che tu la partita non la vedi, te la sta raccontando lui. Stadio parigino di Colombes, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1, la Francia a Parigi per 3-1, il Brasile a Marsiglia per 2-1. Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa la nostra formazione: Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colossi. Parigi, 19 giugno 1938, 4 anni dopo l'Italia di Pozzo fa il bis nei mondiali di Francia, seconda coppa del mondo consecutiva, e Niccolò Carosio è ancora lì a raccontare questa impresa. E tra gli aneddoti più interessanti di questo mondiale c'è da segnalare anche la prima intervista a bordo campo. Carosio sta commentando Italia-Brasile, la semifinale che si gioca a Marsiglia, i giocatori entrano in campo, Carosio vede Meazza passare accanto alla sua postazione e lui non ci pensa due volte, lo ferma, gli chiede un pronostico della partita. Meazza promette una vittoria che avverrà, perché la partita termina 2-1 per l'Italia con il famoso rigore segnato da Meazza, quello in cui gli si rompe l'elastico durante la rincorsa e segna tenendosi i pantaloncini. Carosio è quindi avanti coi tempi, in qualche modo inventa un tipo di intervista che oggi viene usata da tutti. Se nella storia della televisione c'è stata un'autentica identificazione fra un personaggio che era Mike Buongiorno e il telequiz, nella storia della radio l'identificazione c'è tutta fra Niccolò Carosio e la radiocronaca, in particolare di calcio, con l'introduzione di un genere che in Italia non esisteva, cioè sostituirsi con la propria narrazione dell'evento agli occhi dello spettatore che non poteva seguire quell'evento. E questo era Carlo Nesti, uno degli storici telecronisti Rai. Peraltro Nesti ha un record che divide con Niccolò Carosio, che è questo. Siamo gli unici due radiotelecronisti che hanno partecipato con queste mansioni a due mondiali di calcio vinti dall'Italia. Eh sì, perché Carosio commenta i mondiali del 34 e del 38, cioè ne commenterà molti altri, ma commenta quei due mondiali vinti. Nesti debutta nei mondiali dell'82 e si ripete nel 2006, anche se non ha mai commentato le partite della nazionale, ma quelle di altre squadre. Comunque era presente nei due mondiali. Il falco e il gabbiano. Siamo negli anni 30, lo scenario in cui Niccolò Carosio ha le prime grandissime affermazioni come radiocronista, ed erano anni difficili perché, per esempio, non è che si poteva dire tutto quello che ti veniva in mente. Non so, i giornalisti parlamentari non potevano parlare di membri del Parlamento perché la parola membri non era una parola da usare, perché poteva suscitare allusioni sessuali. E poi c'era il divieto da parte della propaganda fascista di utilizzare termini stranieri, perché bisognava difendere intanto la purezza della lingua italiana. Poi c'erano state le sanzioni che avevano inasprito i rapporti dell'Italia col mondo anglosassone. Però noi sappiamo che il calcio l'hanno inventato gli inglesi, quindi Niccolò Carosio deve rimediare al divieto di usare termini della perfida Albione, e nelle sue radiocronache inserisce delle parole che sono rimaste nell'uso comune. Per esempio, non si può dire cross e lui dice traversone, il corner diventa calcio d'angolo e naturalmente il gol diventa rete. Fino ad arrivare anche a qualcosa di più, a delle licenze quasi poetiche, tipo il celebre quasi gol, quando si ricominciò a poter dire non rete ma gol. Ecco, non fu gol ma fu, quando si sfiorava la rete, il quasi gol tipico di Niccolò Carosio. E come ci ricorda Carlo Nesti, Carosio diventa gli occhi di milioni di italiani incollati alla radio per seguire le gesta dei grandi campioni. Sono gli anni del Grande Torino, quelli dell'immediato dopoguerra. Il 27 marzo del 49 Carosio commenta una partita della nazionale, Spagna-Italia. Si gioca a Madrid, la squadra è composta per 9 undicesimi dei giocatori del Grande Torino, c'è Mazzola il capitano, ma ci sono Menti, Ballarin, Castigliano. E poi a maggio viene organizzata a Lisbona un'amichevole di lusso tra il Torino e il Benfica. E Niccolò Carosio deve far parte della comitiva che segue la squadra italiana, ma deve rinunciare perché il figlio fa la cresima. La cresima di questo suo figlio gli salva la vita, perché il grande Torino da quella partita non tornerà più. Il 4 maggio l'aereo, come sappiamo, si schianta sulla collina di Superga. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. E arriviamo così al 3 gennaio 1954, iniziano ufficialmente le programmazioni della RAI, l'avvento della televisione che è una vera e propria rivoluzione, è un po' come quando il cinema muto viene soppiantato dal sonoro e ci si accorge che molte star del cinema non erano capaci di recitare, così anche in questo scenario in alcuni programmi televisivi lasciano pensare che ci possono essere delle lacune da parte di chi ha sempre fatto soltanto la radio, e uno dei principali indiziati è proprio lui, Niccolò Carosio. Ci si chiede se sarà in grado di raccontare le partite con la stessa efficacia senza essere ripetitivo, ora che le immagini si vedono, ora che non c'è bisogno di tanti dettagli. Carosio, quando passò dalla radio alla televisione, mutò totalmente lo stile, perché gli furono imposte le pause. Cioè, se nelle radiocronache lui parlava continuamente, da quando cominciò a fare le telecronache lasciò delle pause nella citazione dei giocatori, che oggi naturalmente coi tempi di oggi ci sembrano lunghissime, un'eternità. E negli anni 60 Niccolò Carosio è stabilmente il telecronista più importante della RAI. Le sue frasi colorite magari oggi fanno sorridere, però in quegli anni diventano il suo marchio di fabbrica. La tagliente ironia con cui dice a Meroni che sbaglia un gol perché non ci vede per colpa dei capelli lunghi, perché Meroni era un anomalo, era il primo capellone. Oppure quando è in colpa a Mario Corso di tenere troppo la palla dicendogli: Mariolino, meno Veronica e più sostanza. Insomma, frasi che entrano nella storia delle telecronache sportive. E poi nel 1966 ci sono ancora i mondiali, sono dei mondiali molto particolari, perché l'Italia viene eliminata dalla Corea del Nord, è uno dei momenti più tristi, più difficili della storia della nazionale italiana. Verrà coniato un termine, la tua Corea, per parlare di una disfatta e imprevista, e Carosio è lì con la sua classe e eleganza a commentare il gol coreano che decreta questa disfatta. Intanto passano gli anni, arrivano nuove leve, arriva Nando Martellini che dopo una lunga gavetta radiofonica conquista l'onore di sostituire Carosio alla finale degli europei del 68, quelli vinti dall'Italia 2-0 contro la Jugoslavia nella ripetizione della finale. Però è una parentesi, perché comunque Carosio è sempre il telecronista principale. Ai mondiali del 70 però Carosio incapperà in un vero e proprio colpo d'ala verso il basso. È una partita che l'Italia gioca nel turno preliminare Italia-Israele, e in questa occasione accade qualcosa che in qualche modo cambierà e in negativo per sempre la carriera di Niccolò Carosio. Poi vedremo come. L'arbitro e il brasiliano Moraes, segnaline sono il tedesco occidentale Cencer e l'etiope Taregen. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Niccolò Carosio, il primo radio telecronista sportivo italiano, quello che prima dai microfoni dell'Eire e poi della RAI è stato gli occhi per milioni di tifosi di calcio che grazie al suo racconto hanno potuto seguire le sorti della nazionale e della loro squadra del cuore. Carriera iniziata negli anni 30, poi due vittorie ai mondiali da commentare, poi l'avvento della televisione che nel 54 costringe Niccolò Carosio a adattare le sue telecronache, a renderle meno descrittive rispetto a una radiocronaca, ma sempre con un comune denominatore, l'eleganza del linguaggio e anche una buona dose di ironia con cui commenta le partite. E poi arriviamo a quel fatidico 11 giugno 1970, tutta l'Italia davanti ai teleschermi, anch'io, ragazzino, bambino, che si guardava Italia-Israele, finì 0-0, girone di qualificazione dei mondiali del Messico. L'Italia ha ancora nitido il ricordo della Corea di 4 anni prima, deve cancellare i fantasmi del passato, ma il risultato è inchiodato sullo 0-0. E poi c'è un primo gol annullato annullato per fuorigioco. Poi c'è un palo e poi, nel secondo tempo, ancora un'azione dell'Italia. Passaggio per Riva. Rete! Alzato! L'arbitro ha convalidato il punto. Però il Quartierini alza la bandiera. L'arbitro aveva convalidato il punto e il Quartierini niente convalida. Ma siamo proprio sfortunati. A parer nostro non esisteva fuori gioco e Riva aveva segnato regolarmente al 29. Quindi gol di testa, l'arbitro convalida, poi il guardialine, l'etiope Seyoum Taregen, alza la bandierina, annulla per fuorigioco. La reazione è molto composta, parla di sfortuna Nicolò Carosio. Il giorno dopo però accade qualcosa e c'è una protesta ufficiale dell'ambasciatore etiope. Si parla di frasi inopportune. In realtà la frase poi, anche se non c'è, ma tutti raccontano che fu, e poi questo etiope ci annulla il gol, quindi una cosa del genere. Bene, questa frase entra nella leggenda metropolitana, un po' come quella signora Longari mi è caduta sull'uccello, cioè le frasi che non sono mai state dette ma che in qualche modo vengono considerate come se fossero esistite. Addirittura si arriva a dire che Carosio avrebbe detto cosa vuole quel negraccio e cose di questo genere. Insomma, nasce un polverone praticamente sul nulla e lo stesso Massimo De Luca lo ripete durante una puntata della Domenica Sportiva. Dunque, facciamo il punto. Avete sentito con le vostre orecchie. Questi sono gli unici momenti di quella telecronaca in cui Nicolò Carosio parla del guardalinea. Avete sentito benissimo. Ha detto per due volte l'etiope. Questo bastò a scatenare una reazione violenta da parte dell'ambasciata etiope a Roma, che portò alla defenestrazione immediata di Nicolò Carosio. In Messico, seduta stante, le partite dell'Italia furono affidate a Nanno Martellini, che infatti raccontò successivamente la vittoria con il Messico, poi quella leggendaria sulla Germania per 4-3 ai supplementari e poi la finale persa con il Brasile. Insomma, un colpo d'ala che mette fine, un colpo d'ala verso il basso, che mette fine alla carriera di Nicolò Carosio. Una delusione da cui sarebbe stato difficile riprendersi. Bene, i fatti hanno dimostrato che le frasi non sono mai state dette, ma in quel momento Carosio viene allontanato dalla RAI. Ai giorni nostri una cosa del genere sarebbe oggetto di dibattiti, scoppierebbero polemiche, lo stesso telecronista passerebbe da una trasmissione all'altra per raccontare la sua versione, per difendersi, magari per recitare la parte della vittima. Niente di tutto questo accade invece per Nicolò Carosio, che davvero gentiluomo accetta le decisioni della RAI, continua a fare il giornalista dedicandosi alla carta stampata e alle telecronache locali. Pensate che in un pomeriggio dell'11 maggio del 75 15.000 persone riempiono la Favorita di Palermo per ascoltare una radiocronaca, la radiocronaca di Carosio della partita Reggiana Palermo che si giocava nella lontana Reggio Emilia. A parlare di Nicolò Carosio e del telecronista in generale, abbiamo qua una delle voci del calcio di oggi, peraltro un telecronista oltre che un giornalista che io ascolto spessissimo, anche perché gioco a un gioco che non vi dico, del quale lui è anche lì telecronista, quindi mi racconta anche il calcio quando gioco io. Sto parlando naturalmente di Pierluigi Pardo. Buongiorno. Noi stavamo raccontando Carosio. Intanto la prima domanda è se ovviamente te lo ricordi quasi gol. Avrai sentito a posteriori, ovviamente l'ho sentito a posteriori e non durante, sì. non live. Beh, insomma, è un tempo mitico, un tempo, no, di malinconia, di magia. Era i primi anni della radio, anni nei quali magari la precisione del racconto era meno importante rispetto alla suggestione di quello si riusciva a creare. Erano anni dove veramente la partita andava fatta immaginare alle persone. Non c'era l'HD, non c'era il 4K, non c'erano i bordocampisti, non c'erano 40 telecamere, e questo da un lato sicuramente rendeva meno preciso il racconto dell'evento, dall'altro però rendeva immaginifico tutto, no? Certo, per cui in qualche modo non si può dire se era più facile o più difficile. Cioè, è chiaro che oggi se tu sbagli un calciatore, metà pubblico dice guarda che non era quello, sei sbagliato. Però d'altro canto dovevi essere un'altra cosa, forse un po' più Omero che non... Esatto. dovevi raccontarlo. Dovevi raccontarla di più, sì, dovevi essere più narratore che cronista in senso stretto. Certamente non avevi internet per poter preparare le partite o non avevi, diciamo, le immagini delle partite precedenti per studiare gli avversari, le squadre che non conoscevi. Non ti veniva probabilmente neanche richiesto, insomma. Però appunto io penso che il tipo di racconto è stato un racconto epico. Epico perché chiaramente, innanzitutto perché c'era un monopolio assoluto, quindi era la voce, l'unica voce che ti raccontava, certo, sì, certo, un certo tipo di situazione. E poi perché appunto era un quadro per chi ascolta completamente diverso, insomma era veramente l'ignoto che si apriva. E quindi, insomma, sì, senti, Pierluigi, tu ti diverti molto a fare il telecronista, mi sembra. Io mi diverto molto. Anche, ti diverti anche a fare tiki-tac, insomma, a tutti interagire, sì, a tutti i convocati qui. Mi diverto molto. Però qual è la cosa che ti piace di più? La cosa che mi piace di più è quando arrivo allo stadio, fare le prove e sentire che poi è una cosa molto radiofonica, sentire il rapporto fra la voce, fra la mia voce e i rumori di fondo, e avere un buon balance fra la voce e il rumore di fondo mi dà già il gusto della partita. Poi, insomma, in qualche modo la telecronaca ti dà l'illusione di essere in campo, certo, di essere protagonista, di essere il tramite dell'emozione per chi sta ascoltando da casa. E io penso che la passione, l'emozione di un telecronista sia sempre la cosa vincente. Ecco, l'unica cosa che veramente, secondo me, è imperdonabile per un telecronista è non divertirsi e non emozionarsi. Poi, ovviamente, sono partite più belle, meno belle, la certo, routine c'è pure il giorno che non ti va, che piove e te ne staresti a casa con tua moglie. Però sicuramente è un lavoro da privilegiati, è quello che vorrebbero fare in tanti. Eh sì. Racconti un gioco, e quindi meglio un filo d'enfasi in più, secondo me, che un filo d'enfasi in meno. Certo, ma io da bambino mi ricordo che quando giocavo a pallone, magari addirittura da solo in casa, facevo la telecronaca. Cioè è una... il gusto, o quando giocavo al subbuteo. Stavo dicendo le stesse cose. Mentre giocavo io facevo la telecronaca. Sì, ma anche i bambini che vedi giocare, no? Cioè, è chiaro che c'è questo identificarsi in un qualcosa di completamente diverso, no? È bellissimo. Poi è chiaro che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo la competenza di chi ci ascolta, ormai, sì, soprattutto in certi contesti. La concorrenza, sì, ma soprattutto la cultura sportiva, per esempio sul calcio internazionale degli sì, ascoltatori. Adesso tutti sanno tutto dell'Leicester, della stagione meravigliosa di Ranieri. Ma in generale tu oggi hai, soprattutto fra i più giovani, un livello di cultura calcistica e di conoscenza straordinario, per cui, insomma, fare figuraccia è molto più semplice, molto più e devi prepararti di più rispetto al passato. È anche più facile prepararti perché oggi è pieno di siti, di statistiche, di cose molto interessanti. Poi però, insomma, è un lavoro anche artistico, no? Sì, molto molto, perché poi c'è la voce, perché poi c'è il ritmo, l'improvvisazione. Io ho visto per esempio grandi, ottimi giornalisti, non faccio nomi, che non sono bravissimi a fare la telecronaca, proprio non gli viene. E anche, devo dire, ammesso che io sia un buon giornalista, ma insomma magari sono anch'io in questa categoria, e magari anche dei giornalisti non straordinari dal punto di vista magari della scrittura dei pezzi, che però hanno una voce molto gradevole, un ritmo molto gradevole, che li porta a essere degli ottimi telecronisti. Pierluigi, sei stato fantastico, e abbiamo capito cos'è un telecronista, la cosa più bella detto da un grande telecronista, la cosa più bella del mondo per chi fa questo lavoro. E quindi Pardo si sposta sulla fascia e ci saluta, e noi lo ringraziamo. C'è il cambio, fuori Pardo, dentro? E io a questo punto. Rimani in campo, Ruggero, espulso, cartellino rosso, via. Quelli della mia generazione se lo ricordano molto bene, anche sulle pagine di Topolino, dove con la rubrica fissa Vi parla Niccolò Carosi aveva raccontato le storie di grandi sportivi ai bambini. Niccolò Carosi muore nel 1984 per una crisi respiratoria. In quell'occasione tutto il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia per ricordare un grande giornalista, uno sportivo, un vero uomo per bene, uno che aveva raccontato agli italiani 40 anni di calcio. Nel 2007, in occasione del centenario della sua nascita, viene addirittura coniato un francobollo su di lui, su Niccolò Carosi. Storie di vite straordinarie, in questo caso dei grandi cantori del nostro tempo, che Novelli e Omero si sono sostituiti alla nostra fantasia per raccontarci un mondo che ancora non potevamo vedere perché non c'era la televisione. Niccolò Carosio, noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che volete che noi si racconti per voi, oppure venite a cercarmi sui miei social, Twitter, Facebook, Instagram o su quelli della radio, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.